Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Decreto Covid, oggi alla Camera il voto di fiducia sul prolungamento dell'emergenza, maggioranza divisa sull'emendamento sui servizi segreti. Addio a Philippe Daverio, storico dell'arte, ex assessore alla cultura di Milano, è morto a 71 anni. La Costa Smeralda come il match Atalanta-Valencia, focolaio d'Europa, in un report le accuse della Regione Lazio alla Sardegna per la gestione dell'epidemia. Calcio, Serie A e col calendario si parte il 19 settembre con Juventus-Sampdoria, 3 soste e 6 turni intrasettimanali. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Dunque ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano, come avete sentito, la scomparsa, la morte di Philippe Daverio, storico dell'arte, molto noto, aveva 71 anni, ne parleremo tra poco con un suo ritratto naturalmente. E poi però in primo piano anche la politica, oggi perché in Parlamento si vota la fiducia al decreto Covid che dovrebbe prolungare lo stato d'emergenza, ma c'è anche un emendamento rivolto, secondo alcune interpretazioni, contro il Presidente del Consiglio Conte, che sicuramente sta mettendo in difficoltà in queste ore la maggioranza di governo. Sentiamo perché. Un pasticcio con in mezzo ai servizi che continua ad alimentare polemiche. Il governo cerca di porre rimedio e mette la fiducia al decreto Covid a Montecitorio dopo che un emendamento firmato da 50 deputati 5 Stelle voleva eliminare la proroga di altri 4 anni dei vertici dei servizi segreti voluta da Giuseppe Conte e avversata dalla base grillina. Luigi Di Maio prende le distanze da quello che appare un siluro al Premier. L'emendamento sull'intelligence, dice, una valutazione dei parlamentari e ribadisce la piena fiducia a Conte. Ma insorge Michele Anzaldi di Italia Viva, che parla di colpo di mano di Palazzo Chigi per cui il Premier deve chiedere scusa. Dall'opposizione Maria Stella Gelmini di Forza Italia attacca: tra intrighi e sospetti Palazzo Chigi è ormai un serial TV, una casa di carta senza successo di pubblico e critica. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 ore Roma. Intanto continuano a calare i contagi, ieri sono stati segnalati 978 nuovi casi, 18 in meno, 8 le vittime, 2 in più del giorno prima, le terapie intensive risalgono sopra quota 100 e oggi ci sarà un'informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto un report riservato della Regione Lazio si scaglia contro la gestione dell'epidemia da parte della Sardegna ed è stato inviato proprio al Ministero della Salute. Secondo l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, i focolai in Costa Smeralda sono paragonabili all'evento della partita di calcio Atalanta-Valencia di febbraio. Una delle accuse riguarda il rientro dei casi positivi. Ben il 60% dei rientrati dalla Sardegna aveva dei sintomi, ciò nonostante fu fatto viaggiare, si dice in questo report, in aerei e traghetti con altri passeggeri. Ne parleremo tra poco. Sentiamo invece quali sono le ultime notizie sul rientro a scuola a 12 giorni dalla riapertura e nelle ore in cui invece si stanno riaprendo le scuole per i corsi di recupero. La Basilicata ha sciolto la riserva, si tornerà in aula il 24 settembre, non il 14 come deciso per la maggior parte delle regioni. Si allunga così a 6 l'elenco delle regioni che posticipa l'inizio dell'anno scolastico, complici le elezioni e il referendum in calendario il 20 e 21 settembre con i seggi elettorali da allestire negli istituti. Preoccupati i sindacati, a pochi giorni dalla ripartenza la CISL Scuola punta l'indice contro le graduatorie provinciali delle supplenze. Gli elenchi, sostiene il sindacato, gestiti online e validati in 4-5 giorni dalle scuole Polo, sono pieni di errori. Il comitato tecnico-scientifico intanto è al lavoro per definire le linee guida sul ritorno a scuola in sicurezza. In aula gli studenti, secondo il CTS, dovranno utilizzare solo le mascherine chirurgiche perché più sicure e usa e getta. Domani poi ci sarà il primo grande test di selezione per gli aspiranti medici. Quest'anno ai nastri di partenza ci sono oltre 66.000 ragazzi. Uno su 5 passerà il test d'ingresso a medicina. Per la prima volta la selezione si farà nell'ateneo vicino casa per evitare gli spostamenti lungo la penisola. scuola. Resta da risolvere il problema degli studenti in quarantena per coronavirus che non potranno sostenere l'esame. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora le altre notizie. Cominciamo con la scomparsa nella notte a Milano dello storico dell'arte Philippe Daverio, docente, saggista, è stato anche assessore alla cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. È stato l'ultimo divulgatore dell'arte in televisione e non solo. Ho scoperto un pittore molto strano. Non era un accademico Philippe Daverio, anzi non era nemmeno laureato. Aveva sostenuto tutti gli esami alla Bocconi, ma non la tesi. Era stato gallerista, editore, curatore di mostre, assessore a Milano nella giunta Formentini. Poi l'incontro con la televisione. Nel 1999 inviato della trasmissione Arte su Rai 3, poi conduttore di Artù. Ma è nel 2002 che diventa personaggio popolare grazie a Passepartout. La cremosità l'ha voluta il ricciolo. Attenzione, il barocco è un altro di quei termini inventati dalla critica all'inizio dell'Ottocento. Subito riconoscibile per il suo look eccentrico e per quel suo modo di pronunciare l'italiano, lui, nato a Mulhouse da madre alsaziana, faceva scoprire meraviglie all'ora del pranzo della domenica, superando spesso il milione di spettatori. Protagonista di controversie e di battute fulminanti da talk show, spesso ha generato polemiche, talvolta trascinato dal suo amore per le bellezze italiane, spesso trascurate. L'Italia è una delle culle dell'Occidente e dell'Europa e come tale che l'Europa si tiri sulle mani. Che salvi la culla. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora le altre notizie di cronaca. Cominciamo con la nave Sea-Watch con a bordo 353 migranti. In arrivo a Palermo, dove la notte scorsa sono stati invece imbarcati sulla nave quarantena Allegra altri 181 migranti provenienti da Lampedusa. Oggi il sindaco dell'isola Martello e il presidente della regione Musumeci incontrano il presidente del Consiglio Conte. L'ultimo atto di uno scontro sui migranti che va avanti ormai da settimane è la pubblicazione su Facebook da parte del governatore siciliano Nello Musumeci di un video sull'hotspot di Lampedusa. Ecco le condizioni dell'hotspot, semplicemente disumane, dice Musumeci. I diritti umani vanno praticati, non predicati, altrimenti è solo retorica. Il tutto mentre si avvicina il momento dell'incontro tra Musumeci, il sindaco di Lampedusa Totò Martello e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accompagnato dai ministri Lamorgese e Gualtieri. Sul tavolo la proposta di 3 navi quarantena per svuotare l'hotspot di Lampedusa, aiuti dallo Stato per sostenere l'economia dell'isola e adeguamento anti-Covid dei centri d'accoglienza siciliani. Intanto è quasi arrivata a Palermo la nave Sea-Watch 4 con a bordo 353 migranti che imbarcherà i 313 migranti che si trovano per il momento sulla nave Allegra, che a sua volta farà poi rotta per Lampedusa. E gli arrivi di migranti non si fermano. A Pozzallo sono arrivati i 18 soccorsi l'altro ieri dalla Asso 29, nave che lavora per le piattaforme petrolifere davanti alle coste libiche. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Con la cronaca ci spostiamo a Bologna per un giro di presunti festini con minori. Ai domiciliari è finito un ex candidato della Lega alle regionali, in carcere invece un imprenditore bolognese. Ragazzine minorenni coinvolte in presunti festini dove giravano sostanze stupefacenti. L'ipotesi d'accusa è che da ottobre 2019 fino alla primavera di quest'anno almeno due ragazze minorenni abbiano partecipato ai festini che si svolgevano nella villa di uno degli indagati. La chiamavano Villa Inferno. Sarebbe stata una mamma a fare la più scioccante delle scoperte sul telefono della figlia 17enne. A Bologna, dove il nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro ha eseguito 6 misure cautelari di vario tipo nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di droga. Per uno degli indagati, imprenditore, è stato disposto il carcere, domiciliari per un altro indagato e misure più leggere per altri 3, tra cui un avvocato. Tra le persone coinvolte nell'indagine dei carabinieri di Bologna c'è anche Luca Cavazza, 27 anni, agente immobiliare, candidato non eletto alle regionali di gennaio in Emilia-Romagna con la Lega. Anche per lui, conosciuto in città nell'ambiente dei tifosi della Virtus Basket, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Roma invece un tassista è accusato di due violenze. Sono due le violenze sessuali di cui è accusato il tassista di 46 anni arrestato a Roma dai carabinieri della stazione Monte Mario. Le vittime sono due clienti, una turista statunitense di 20 anni e una donna romana di 34. I due episodi sarebbero avvenuti nell'aprile del 2017 e lo scorso gennaio. Nel primo caso l'uomo avrebbe prelevato la turista e avrebbe abusato di lei nel sedile posteriore del taxi. Nel secondo, invece, il tassista avrebbe violentato la 34enne dopo averla accompagnata a casa mentre lei era incosciente a causa dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche. Il giorno seguente avrebbe poi contattato la vittima chiedendo di rivederla. Dopo lunghe indagini, oggi è scattato l'arresto su disposizione della procura. L'uomo si trova ora ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero adesso andiamo in Ungheria. Per la prima volta gli studenti ungheresi hanno occupato una università, è accaduto a Budapest nell'Ateneo che forma i professionisti dello spettacolo. All'origine della protesta la decisione del governo Orban di estromettere la direzione dell'università. In Ungheria si trova Stefano Bottoni, docente di storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze, lo ha raggiunto per un commento. Laura Bettini. Questa battaglia si inserisce in un contesto più ampio che è la conquista delle sfere culturali e accademiche da parte del governo di Orban, e questa università era vista come un bastione della cultura liberale di sinistra che il governo combatte fortemente, e quindi è stato nominato un nuovo board di comando con un nuovo rettore, è stata cambiata la forma da pubblica a una fondazione privata sulla quale il governo ha un controllo praticamente totale, annullando l'autonomia, e la battaglia degli studenti, sostenuti anche da grandissima parte dei loro docenti, molti dei quali si sono dimessi in segno di protesta, è proprio per preservare il carattere pubblico e l'autonomia. C'è stata qualche reazione da parte delle autorità a questa protesta? Per ora la polizia non è intervenuta, vedremo come il governo si comporterà nei prossimi giorni. E siamo allo sport, il calcio, la Serie A, è uscito il calendario, si parte naturalmente il 19 settembre come previsto con Juventus-Sampdoria ma anche Milan-Bologna, 3 soste, 6 turni intrasettimanali, Inter-Juve si gioca la 18ª giornata, la 4ª è il derby di Milano, l'ultima di campionato, il 18 maggio saranno in trasferta sia la Lazio sia la Roma per lasciare lo stadio olimpico libero per l'inaugurazione degli europei di calcio, rimandati di un anno, ne parleremo più avanti ancora durante Effetto Giorno. Adesso ci fermiamo per la pausa, torniamo tra poco dopo le informazioni sul traffico. 349-238-6666. Ripartiremo dalle accuse della Regione Lazio alla Sardegna per la gestione dell'epidemia. La Costa Smeralda, definita focolaio d'Europa, sentiremo che cosa ne pensa il presidente della Sardegna Solinas. A tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Alla Camera il voto di fiducia al decreto Covid, maggioranza divisa sull'emendamento sui servizi segreti. Addio a Filippo D'Averio, divulgatore dell'arte, ex assessore alla cultura di Milano, morto a 71 anni. La Costa Smeralda come il match Atalanta-Valencia, focolaio d'Europa, in un report le accuse della Regione Lazio alla Sardegna per la gestione dell'epidemia, ne parliamo tra poco. Calcio Serie A e col calendario Juve, Sampdoria e Milan Bologna alla prima giornata. Allora, chiaramente ci saranno delle verifiche in merito a questo e prenderemo più informazioni, però è chiaro che è una situazione che deve essere valutata. Se dovesse essere così è evidente che qualche falla c'è stata e va corretta per i prossimi viaggi. Sicuramente, diciamo, in Sardegna vi è stato un problema, soprattutto in alcuni locali, ma diciamoci la verità, non c'è un caso Sardegna. Le parole del vice ministro della Salute Sileri a Radio 24 sulla gestione dell'epidemia da parte della Sardegna. Qualche critica dice non c'è un caso Sardegna, e allora ne parliamo con il presidente della Regione Sardegna, Cristian Solinas. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito, Solinas. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, alcune di queste criticità di cui parla anche Sileri sarebbero contenute in un report, Solinas, della Regione Lazio, fatto insieme allo Spallanzani e inviato al Ministero della Salute, nel quale, dal quale emergerebbe che alcuni positivi rientrati, glielo dico così poi le faccio rispondere, le dico i due aspetti, no? Alcuni positivi rientrati dalla Sardegna a Roma avevano dei sintomi, e ciò nonostante visibili, sintomi visibili, ciò nonostante sarebbero stati fatti viaggiare insieme ad altri passeggeri normali su aerei e traghetti. L'altra cosa è che alcuni di questi positivi rintracciati successivamente sono stati rintracciati col tracciamento dei contatti, cosa che, dice Lazio, non è stata fatta in Sardegna quando poteva invece essere fatta. Solinas, cosa risponde? Guardi, mi pare che siamo davanti ad una vergognosa strumentalizzazione in tutta questa vicenda, senza precedenti e soprattutto senza alcun fondamento, né di verità né scientifico, perché gli unici dati, al netto delle chiacchiere, ci dicono, perché lo ha certificato lo stesso Ministero della Salute con uno studio epidemiologico fatto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l'Istat, che la Sardegna ha avuto lo 0,3 di indice di sieroprevalenza, questo significa il più basso d'Italia, che in Sardegna il virus non c'era prima che iniziasse agosto. E noi avevamo detto con estrema chiarezza al governo che sarebbe stata necessaria non una riapertura della circolazione senza alcun limite, come poi è stata fatta dal governo, ma chiedevamo che ci fosse una forma di certificato sulla condizione di ogni singolo viaggiatore, che certificasse l'avvenuta esecuzione di un tampone o di un test sierologico che desse la negatività, perché qualora si fossero riaperte senza limitazioni tutte le frontiere regionali e le frontiere verso l'esterno, una nuova circolazione virale era scontata. Questo era già capitato in Corea del Sud, in Indonesia, in tutte le parti del mondo dove l'epidemia si era diffusa prima. Ora, pensare che la Sardegna sia un epicentro di diffusione è destituito di fondamento. Ma lei risulta, Solinas, ora è stato fatto anche il paragone con dall'assessore alla sanità del Lazio D'Amato con la partita Atalanta-Valencia a febbraio. Guardi, io non conosco D'Amato, ma è molto simpatico o sicuramente non ha ben presenti tutti i dati, perché io ho 22 focolai in Sardegna, tutti di importazione, e cioè nessun caso che nasca in Sardegna, ma tutti i casi che sono stati importati dall'esterno, inclusa la Regione Lazio. Ma non mi sono mai sognato di andare a praticare l'attività di dossieraggio che vorrebbe fare qualcuno. Quando lei dice, Solinas, scusi, di importazione, si riferisce a cosa? Perché noi in queste... Significa a soggetti che sono arrivati in Sardegna positivi, assolutamente, e quindi dalle zone di provenienza non sono stati sicuramente rilevati. Il punto però che sembra essere emerso un po' anche, diciamo così, ricostruendo un po' quello che è successo quest'estate, in particolare in Costa Smeralda, no? È che il combinato tra il fatto della decisione italiana di riaprire le discoteche, mentre magari in altri paesi c'è stata un pochino più di rigidità su questo, e la concentrazione di locali che c'è in Costa Smeralda abbia creato di fatto, anche se di persone che venivano da non dalla Sardegna, un focolaio in Sardegna. Io glielo chiedo, lei pensa che è stato fatto tutto il possibile per gestire quella situazione lì in particolare, dei locali in Costa Smeralda? Guardi, le faccio una domanda io. Lei sa quanti locali ci sono in Costa Smeralda, quanti nella Riviera Romagnola e quanti in Versilia? Sicuramente molti meno in Costa Smeralda e con molti meno posti di capienza. Ora mi deve spiegare perché l'assembramento nelle discoteche della Riviera Romagnola, della Versilia, non sia contagiosa, mentre sarebbe contagiosa solo quella che si è verificata nella Costa Smeralda. Peraltro, dai dati e dai numeri, rispetto al totale, i contagi registrati derivanti dalla presenza in discoteca sono una parte minoritaria. E ancora le aggiungo, lei pensa che i giovani, se fossero state chiuse le discoteche, non si sarebbero assembrati nelle spiagge, nelle piazze, nei lounge bar? e quegli assembramenti erano meno pericolosi e contagiosi di quelli in discoteca. Sicuramente all'interno dei locali, infatti poi è stato deciso di chiuderli, ci sono le condizioni per maggiore vicinanza, Solinas, questo mi sembra indubbio. Certo, ma il tema vero è quello che andavano fatti i controlli a monte per evitare che circolasse nel paese la gente che era positiva, anche se asintomatica. Ma ex post, Solinas, vale? Sì, le faccio questa domanda. Diciamo adesso, pensandoci adesso, vale sia per voi in Costa Smeralda sia per i locali dell'Emilia Romagna? È stato sbagliato riaprire i locali, le discoteche? È stato sbagliato non consentire di fare il test prima che arrivassero nei locali, perché se ci fosse stato il certificato di negatività che noi abbiamo chiesto in tempi non sospetti, ci si poteva vedere nelle discoteche, nei ristoranti o nelle spiagge, ma nessuno si sarebbe contagiato. Però lei sa benissimo che il test di, diciamo, quello che dice lei, il test di negatività può essere fatto 24 ore fa e nel frattempo entrare e essere già contagiati. Il punto è creare o meno le condizioni per degli assembramenti. Certo, ma quello, il controllo all'interno dei locali sicuramente deve essere fatto perché le ordinanze prescrivono delle distanze, però le dico ancora, se questo test ha questi problemi, mi spiega perché lo Stato ha previsto questa tipologia di controllo per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia o Malta? O funziona sempre o non funziona mai? Le ripeto ancora una volta l'ultima domanda per chiudere, Solinas. Lei pensa che in Sardegna le autorità locali hanno fatto tutto il possibile? Perché per esempio una delle cose che è stata detta è che sui traghetti non sono stati fatti i controlli necessari a persone che avevano sintomi. Questo è quello che sarebbe riportato in questo report, lo dico condizionale naturalmente, perché certo. Su questo mi consenta di dire due cose. Sì. Uno, abbiamo molti rei confessi su tutti i social network, i giornali e le televisioni che hanno dichiarato di aver assunto tachipirina per abbassare la febbre e poter superare i controlli. Quindi c'è un comportamento di questo tipo. Due, lei sa che i controlli, la sanità marittima è in capo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e quindi allo Stato. Gli USMAF sulle frontiere marittime e aeronautiche non sono di competenza della regione. Quindi se c'è stato un problema sui traghetti, lei dice è un problema non nostro. È un problema che sicuramente, se lo si vuole individuare in quel modo, va ricercato in chi avrebbe dovuto controllare, cioè la sanità di frontiera negli aeroporti e nei porti. Dopodiché i DPCM, le linee guida, dicevano che le compagnie marittime e aeree dovevano rilevare queste temperature. Va bene, grazie al presidente della Regione Sardegna, Cristian Solinas, grazie per questa replica, grazie per essere stato con noi. Allora, vi faccio sentire un altro passaggio, sempre del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite questa mattina a Radio 24. Questa volta parla della questione dei vaccini, perché c'è la necessità di vaccinare per l'influenza di stagione, ma ci sarebbe una richiesta addirittura maggiore rispetto a quella che sono le dosi disponibili. Vedremo anche di capire se c'è una carenza da questo punto di vista che si annuncia. Sentiamo Sileri. Ma quindi siete pronti a comprare eventualmente nuove dosi di vaccino antinfluenzale? Siamo pronti a comprare nuove dosi di vaccino, certo. Siamo ai primi di settembre e quindi vi è tempo per, diciamo, provvedere a ulteriori dosi. Le regioni sono già attrezzate tutte per questo. La campagna di vaccinazione chiaramente inizierà un po' in anticipo rispetto agli anni precedenti, quindi è vero che siamo preoccupati della circolazione del virus e quindi della sovrapposizione di sintomi che possono essere fuorvianti, ed è per questo che qualche giorno fa ho detto dobbiamo avere una capacità di fuoco anche con i tamponi molto più alta nei prossimi mesi, non che oggi servano 300 o 400 mila tamponi, ma potrebbe esserci, diciamo, un picco di necessità di tamponi magari quando vi sarà il picco influenzale. E allora è con noi Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. È caduta la linea, sì, allora cerchiamo di recuperarlo. Miani, per un commento anche a questa notizia sulla possibile carenza di vaccini antinfluenzali, perché fin qua erano le rassicurazioni del vice ministro Sileri, ma insomma si tratta di capire se effettivamente, diciamo, ci saranno queste dosi disponibili per chi vorrà fare il vaccino, perché c'è un allarme proprio in queste ore delle farmacie farmacie che invece parlano di una carenza di 1,5 milioni di dosi. Abbiamo recuperato Miani. Sì, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, prima di arrivare, anticipiamo poi l'altro tema, che è quello della vostra proposta sui test rapidi, la liberalizzazione dei test rapidi. Voi dite che bisogna farlo per, come dire, agevolare in questa fase quanta più consapevolezza possibile nel stato, diciamo, diffusione dell'epidemia. Prima però le chiedo, Miani, un commento su questo. Pensa che potrà esserci una carenza di vaccini antinfluenzali? Avete notizie di questo tipo quest'anno? Sì, anche noi abbiamo notizie di questo tipo e l'augurio, come peraltro ho sentito solo in parte l'amico viceministro Sileri, è che realmente ci sia la possibilità di acquistarne in tempi rapidi, anche perché quest'anno probabilmente la faremo un pochettino tutti anticipata l'antinfluenzale. Ecco, di quanto? Questo, diamo anche questa informazione, perché normalmente si fa a novembre circa, più o meno, no? Normalmente si fa a novembre, quest'anno si parla già di ottobre, metà ottobre, ecco, okay. come date. E l'obiettivo è quello di dare la possibilità anche ai farmacisti di poter effettuare l'antinfluenzale, perché comunque le richieste saranno talmente tante quest'anno e peraltro sono richieste assolutamente condivise da me e da noi in particolare, perché più copertura abbiamo sull'influenza stagionale, meno caos andiamo a creare su diciamo eventuali sovrapposizioni con positivi o comunque con malati Covid. È quello di avere il maggior numero di addetti possibili, voglio dire competenti, per fare un'iniezione alla fine semplice, ma rispettando poi i tempi d'attesa per verificare che non ci siano effetti collaterali. Quindi ritengo che un farmacista, come un medico, possano essere le persone ideali. Ok, senta Miani, voi fate anche una proposta e dite: in questo momento nel quale c'è bisogno comunque di conoscere il più possibile la diffusione dell'epidemia, lo stato di salute di ognuno di noi, occorrerebbe una sorta di liberalizzazione dei test sierologici rapidi, se ho capito bene parlate di quelli che si fanno con una goccia di sangue sul pungidito. Di che si tratta? Si tratta di questo. Questi sono test che sono utilizzati già da mesi in tutto il mondo e anche in moltissimi paesi europei. In Italia sono stati in una fase iniziale caldamente osteggiati, perché si dicevano che non erano precisi, non sono precisi eccetera. Nei fatti il loro grado, diciamo, di precisione è abbastanza simile al sierologico tradizionale e leggermente inferiore a quello del tampone, che peraltro poi in caso di positività sarebbe il passaggio successivo da eseguire. Però per esempio il commissario Arcuri ha bandito una gara prima dell'estate, in previsione dell'apertura delle scuole, per l'acquisto di 2 milioni di questi test rapidi pungidito. Ecco, quindi sono gli stessi che Arcuri vuole fare al personale della scuola, voi dite che andrebbero resi fattibili in farmacia, semplicemente. Ossia, come sistema, diciamo, di test è molto simile al glucometro, test rapido Covid-19 pungidito, per cui ci sono 400 e oltre milioni di persone nel mondo che usano abitualmente il glucometro col pungidito, non capiamo per quale motivo. Quello per il diabete, ecco, il glucometro? Esattamente, quello che diciamo ti dà l'indicazione della glicemia, non capiamo per quale motivo non possa essere anche il test rapido Covid, che peraltro è anche molto simile, ripeto, come sistema di funzionamento, essere libero per autodiagnosi. Questo da un lato faciliterebbe tutte quelle persone che vogliono fare dei controlli puntuali e quindi poi prendere subito di conseguenza tutte le precauzioni del caso in attesa di poter fare il tampone. Da un lato avrebbe un costo di accesso nettamente inferiore rispetto a quello che è il sierologico fatto in laboratorio, che mediamente costa dai 60 a 80 euro, mentre i test rapidi hanno dei costi nettamente più bassi. e poi consentirebbe a tutti quei sottogruppi di popolazione, a partire dalle scuole, anche gli stessi studenti, noi ci auguriamo, ma anche a tutti quegli altri lavoratori che hanno necessità di fare, per diciamo garantire una continuità lavorativa in sicurezza, dei test in maniera periodica, con anche una discreta frequenza, di poterli fare. Certo, e perché tramite il test sierologico si può scoprire se si è venuto in contatto precedentemente. Ecco, noi in 10-15 minuti abbiamo una risposta, e se li ripetiamo con una cadenza, non so, settimanale, ogni 15 giorni, possiamo tenere sotto controllo a livello di screening effetti importanti della popolazione, con dei costi molto contenuti e con delle risposte immediate. Ecco, in pochissimi secondi però, Miani, perché fino ad ora non si è fatta questa liberalizzazione in farmacia dei test rapidi? C'è un ostacolo? Guardi, mi mette un po' in difficoltà con questa domanda. Perché? Io penso che si sia voluto, diciamo, dare priorità, come è giusto, ai tamponi, ma si è visto anche il limite dei tamponi, ovvero sia che da un lato la difficoltà nel recuperare i vari reagenti e dall'altro i tempi lunghi. Quindi diciamo, però una scelta risposte, politica, ecco. Lei dice una scelta politica. Ecco, io penso di voler privilegiare il tampone sul una test. Scelta politica e una scelta di opportunità. Vedremo, ecco. Se invece a settembre, con diciamo questa nuova fase, questo sviluppo della fase 2 nella quale ci troviamo, poi diciamo ci porterà anche a abbracciare questa vostra proposta. Alessandro Miani, grazie per essere stato con noi. Sono le 13.32, facciamo il break, poi c'è l'informazione di borsa, torniamo tra pochissimo, parleremo delle decisioni delle aziende per quanto riguarda il lavoro da casa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Decreto Covid, alla Camera si vota la fiducia sul prolungamento dell'emergenza, maggioranza però divisa sull'emendamento sui servizi segreti. Addio a Philippe Daverio, storico dell'arte, ex assessore alla cultura di Milano, è morto a 71 anni. A Bologna festini con minori, ai domiciliari finisce un ex candidato della Lega, in carcere un imprenditore. Juve, Sampdoria e Milan, Bologna per la prima giornata di Serie A il 19 settembre. Presentato il calendario, 3 soste per la nazionale e 6 turni intrasettimanali. Eccoci qua in diretta di nuovo con Effetto Giorno, cari ascoltatori. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ne leggo alcuni al volo. Grazie a Solinas, abbiamo saputo che tra le regioni ci sono le frontiere, commenta ironicamente questo ascoltatore. Solinas si è richiamata a queste competenze di carattere nazionale sui traghetti e nei porti e negli aeroporti, che sicuramente ci sono, difficile però non rintracciare anche qualche competenza locale su questo. C'è un ascoltatore che invece dice: sono appena tornato in Sardegna, dalla Sardegna in traghetto c'era gente ammassata. E poi ancora vediamo, sono stato in Sardegna ad agosto, scrive quest'altro ascoltatore, insieme al biglietto della nave ci hanno mandato un modulo da compilare chiamato Sardegna Sicura. Di questi moduli ne abbiamo visti tutti in tutte le salse in questa stagione estiva, dice l'ascoltatore chiudendo il messaggio, però poi all'arrivo non ce l'hanno chiesto. Come mai? Va bene, alcune di queste domande le abbiamo girate, lui ha risposto poco fa, il presidente della Sardegna, Solinas, attaccato in un report della Regione Lazio sulla gestione dell'epidemia di Covid. Adesso è il momento del punto, del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Paolo Gentiloni, il commissario europeo per gli affari economici, ieri ha detto 3 cose importanti che il governo farebbe bene non sottovalutare. Gentiloni è il referente istituzionale del Recovery Fund, vale a dire dei 209 miliardi che l'Unione ha deciso di dare all'Italia. Bene, ha detto che non c'è tempo da perdere, che il piano per gli investimenti deve arrivare a Bruxelles entro il 15 ottobre e probabilmente siamo già in ritardo. Poi l'Unione Europea avrà 8 settimane per valutarlo e decidere se accordare o meno quella montagna di denari al nostro paese. E questa è la prima cosa, e significa che se ne parla nel 2021. La seconda è che gli investimenti dovranno interessare progetti sulla sostenibilità sociale, sull'ambiente o sull'innovazione, quindi non disegni di riforme fiscali o piani che prevedano di finanziare spesa pubblica corrente. La terza, ed è la più importante, è che nel 2020 l'Italia può scordarsi i 20 miliardi di possibile anticipo. Era una somma che al governo avevano più volte accreditato per gestire i conti fino a fine anno, ma non ci sarà. Ci sarà invece il Fondo Salva Stati, il famigerato MES, che crea tanti mal di pancia al governo. Farebbe risparmiare 6-7 miliardi di tassi di interesse, ha detto Gentiloni. E se il governo fosse stato meno superficiale, quei fondi li avremmo già da tempo e magari potevano già servire, oltre che a cambiare gli ospedali, anche a far cominciare la scuola in condizioni migliori. Allora, intanto una piccola notizia che riguarda i mondiali di ciclismo che sono stati assegnati poco fa all'Italia, ad Imola, lo ha deciso l'Unione Ciclistica Internazionale, che doveva riassegnare i mondiali sospesi in Svizzera, ed è stato deciso di farli il 24 e il 27 settembre in Italia. È con noi adesso il responsabile dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, Mariano Corso. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Corso, noi volevamo fare un po' con lei il punto sulla situazione per quanto riguarda il lavoro da casa, il lavoro da remoto. Insomma, le ultime notizie che abbiamo letto in questi giorni parlano insomma di un certo movimento che c'è. C'è stato il Comune di Firenze, per esempio, che ha deciso di restringere la platea dei dipendenti che saranno in smart working, un po' sulla stregua di quanto fatto anche dal Comune di Milano, e si nota da parte dei sindaci delle grandi città un po' di allarme per lo svuotamento delle città. Ci sono poi due grandi aziende che hanno da poco annunciato, Eni e Leonardo, che anche nel post emergenza Covid ricorreranno fino a un 30% della loro manodopera, dei dipendenti, insomma, al lavoro da casa. Fino ad oggi, Corso, abbiamo avuto il passato tradizionale, la fase del lockdown e poi diciamo la fase 2, che era un po' un ibrido. Adesso a settembre le chiedo intanto questo: che indicazioni avete per questo diciamo rilancio di fase 2? Ci saranno cambiamenti rispetto a giugno-luglio o le aziende sono intenzionate a rimanere nella stessa condizione? Noi registriamo da parte delle aziende e anche dei lavoratori da una parte un'esigenza di tornare a una modalità di lavoro più sostenibile, dall'altra il desiderio che non si perda quanto è stato diciamo guadagnato, ottenuto, appreso durante il lockdown. Quindi c'è una grande tensione che riguarda la maggioranza delle organizzazioni verso la ricerca di un equilibrio, quindi che concluda un po' l'esperienza del lavoro full time da remoto. Sì. Quindi la maggioranza delle aziende dichiara di voler tornare in ufficio almeno parzialmente, in modo da anche compensare alcune possibili difficoltà legate alla socializzazione, all'innovazione. Dall'altro però è anche assolutamente prevalente la richiesta sia da parte dei lavoratori che delle aziende di portare avanti quello che è stata una discontinuità importante, quindi il numero di lavoratori da remoto è destinato rispetto al pre-pandemia a crescere moltissimo, quindi noi stimiamo almeno di 5-6 volte rispetto a quelle che erano i dati pre-Covid. Ecco, per darci un ordine di grandezza, 5-6 volte rispetto a quello che erano i dati pre-Covid, però noi siamo ancora immersi in questa che io ho chiamato una fase 2, che adesso vive un momento diciamo di ripartenza a settembre, vedremo come va con la scuola, fattore che influirà anche sulle scelte delle aziende per quanto riguarda i dipendenti, perché se richiudono le scuole poi chiaramente i genitori avranno a che fare coi figli. Quale diciamo rispetto a quello che stiamo vivendo adesso, a cosa siamo destinati a vedere nel momento in cui l'emergenza sarà speriamo, insomma, voglio dire, finita, sospesa, ridimensionata, insomma, scemata, e che si avvierà tra qualche mese, speriamo, a una sorta di, diciamo, di rallentamento e di conclusione rispetto allo scenario di adesso. Guardi, noi prima del Covid avevamo 600.000, stimavamo 600.000 lavoratori smart che lavoravano da remoto in media un giorno alla settimana. Stiamo andando verso uno scenario a tendere, quindi parliamo, come lei diceva, del diciamo scenario a chiusura dell'emergenza, in cui le intenzioni sono quelle di avere diciamo almeno, noi stimiamo tra i 3 e i 4 milioni, quindi dicevo per 5, per 6, ma soprattutto quello che cambierà è il tipo di equilibrio, cioè si pensa a un bilanciamento di 2-3 giorni alla settimana da remoto rispetto a quello che quindi almeno un raddoppio, diciamo, del ricorso al lavoro da remoto rispetto a prima per il singolo lavoratore. Quindi effettivamente un cambio di paradigma in continuità con l'esperienza in realtà molto positiva che è stata fatta durante l'emergenza. Senta, le voglio chiedere anche questo. Crede che saranno soltanto, diciamo, le grandi aziende le prime a muoversi su questo terreno, o diciamo, aziende che hanno a disposizione anche la capacità di mettere dei filtri anti-hackeraggio? Per esempio, io penso all'utilizzo dei computer da casa, ci pone anche un problema di sicurezza, no? Quindi ci sono anche degli investimenti da fare, degli accorgimenti da avere, oppure diciamo, la tendenza sarà inesorabile, riguarderà tutti i lavori compatibili con l'uso del computer da casa, anche in aziende medio-piccole? Questa è la grande discontinuità. Prima dell'emergenza il fenomeno era molto presente, in crescita, ma riguardava prevalentemente la grande azienda. C'è stato proprio un salto di consapevolezza che riguarda non solo le medie aziende, ma anche le piccole, addirittura i professionisti. Cioè, si è visto che la dimensione non conta più di tanto, anche micro aziende possono avere grandi vantaggi da un lavoro più intelligente, meglio bilanciato. Credo che la parola d'ordine sia proprio questo, un corretto bilanciamento, cioè non bisogna negare tutti i vantaggi che abbiamo sperimentato, però bisogna anche riprendere quanto di buono c'è nella socializzazione, nel lavoro in presenza, nella relazione interpersonale anche fisica. E questo consentirà anche alle piccole imprese e ai professionisti di realizzare dei miglioramenti importanti. Grazie Corso, grazie, buona giornata. Responsabile dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Calendario di Serie A diffuso quasi 2 ore fa, a questo punto materia per voi, Carlo. Sì, Benevento Inter, Fiorentina Torino, Genoa Crotone, Juventus Sampdoria, Lazio Atalanta, Milan Bologna, Parma Napoli, Sassuolo Cagliari, Udinese Spezia, Verona Roma. Si riparte qui il 20 di settembre da queste partite, sapendo che quelle di Inter, Atalanta e probabilmente Spezia verranno rinviate, perché così è stato chiesto da queste società che sono state le ultime a chiudere la precedente stagione. Poi alla seconda giornata Roma-Juventus, alla terza Napoli-Juventus e Lazio-Inter, alla quarta il derby di Milano, alla decima quello di Torino e alla fine, soprattutto questo è abbastanza inedito e curioso, alla 18ª c'è Inter-Juventus e il derby di Roma, quindi penultima di campionato con queste partite che sono pesanti, chiaramente chiave molto, almeno così nei pronostici della vigilia, chiave molto attese. Quindi abbiamo in mano il calendario, potremmo organizzarci i nostri weekend, per ora soltanto televisivi, perché di apertura degli stadi ancora si parla da lontano. Poi c'è un'altra notizia che ti do prima, sì, di salutarti, e che è il fatto che l'Italia ospiterà i mondiali di ciclismo ed è ufficiale. Ah sì, l'abbiamo letta poco fa. È molto bene. Ti ho bruciato, hai visto? Beh, a me è bruciato. Beh, questa è una bella notizia. È una bella notizia. Sì, tra l'altro Imola, che ospiterà anche la Formula 1, sì, alla fine di ottobre, quindi è un mesetto. Autunno meraviglioso per la Romagna, doppio Gran Premio a Misano e poi questi due appuntamenti, ciclismo e Formula 1 a Imola. Bene Carlo, grazie. Bene, ti risentiamo naturalmente con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Piccolo break, torniamo tra un attimo. Effetto giorno. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Prima di aprire la normale finestra sul mondo, vi vogliamo far sentire una voce particolare, un po' fuori dal coro, però riapre la pagina sull'emergenza coronavirus. Giulio Tarro, docente di virologia all'Università di Milano, lo conoscete perché è stato al centro di diverse polemiche per le sue tesi, diciamo, su un allarme eccessivo che c'è stato per il virus. Lui però è un illustre virologo, adesso ha aggiunto anche una veneranda età, ma insomma lo ha intervistato Elisabetta Fiorito e gli ha chiesto il suo punto di vista su due o tre questioni di attualità, il vaccino e anche la riapertura della scuola. Sentiamo. Secondo lei l'epidemia in Italia si è attenuata, abbiamo maggiore consapevolezza, stiamo riuscendo a contenere il virus malgrado le discoteche, le vacanze? Ma senz'altro, anche d'altra parte sono i numeri che lei pensa che cosa abbiamo visto con l'entrata dell'estate, è quello che c'è stato a Napoli in particolare, la famosa vittoria della Coppa Italia con l'assembramento, napoletani sciagurati, non c'è stato un solo caso eventualmente legato a quei festeggiamenti. Quindi per lei c'è un po' di speranza. Senta, si riuscirà a trovare un famoso vaccino in tempi brevi? Noi ci troviamo di fronte a una situazione di malattia in corso, di epidemia. E quindi il vaccino non è più un preventivo, bisogna avere una terapia per questo. Per cui sicuramente dobbiamo essere pratici e pensare che gli anticorpi soggetti guariti sono l'attuale vaccino che serve soprattutto per la guarigione di quelli nella fase più critica. Un'ultima domanda, come vede la riapertura delle scuole? In maniera molto favorevole, perché dobbiamo anche tenere in considerazione la ricetta israeliana, che era quella di far circolare il virus tra i giovani e quindi in un certo senso bisogna fare tutto con buon senso e sicuramente, diciamo, la riapertura delle stesse. Ecco qua. E allora, come anticipato, è sempre questo lo spazio che dedichiamo alle notizie internazionali. Oggi assente Giulia Crivelli. Riapriamo la stagione con un ritorno, che è quello di Giampaolo Musumeci. Buongiorno Alessio. Sorridi presente. Perché la gag è sempre la stessa. Facciamo, anno nuovo, sì. Ma gag vecchia. Presente sì. Ingiustificato, allora. Perché qualcuno mi ha insegnato che le gag bisogna farle, rifarle. È vero, il tormentone fa ridere. Poi non fa effetto. Invece noi piano piano arriveremo, secondo me. Secondo me sì. Arriveremo. Allora, l'appuntamento con voi di Nessun Luogo Lontano alle 16 oggi pomeriggio. So che state già lavorando sulla questione Libia, che in realtà diciamo viene da ieri, perché c'è stata questa visita di Di Maio. Ogni volta che c'è Di Maio in Libia, però poi non si sa mai esattamente, non ci sono notizie, comunicati, è sempre tutto molto... Ma non è un'accusa che sto facendo, probabilmente territorio, quello è un terreno nel quale anche solo far uscire una notizia è difficile. Diciamo che nel dossier libico, sul dossier libico, la grande diplomazia internazionale si muove in maniera molto sotterranea. Ci sono tutti i team evidentemente della Farnesina che stanno svolgendo un lavoro incredibile in queste settimane, in questi mesi. Poi sai, le dichiarazioni di prassi, quelle liturgie in cui si dice, Di Maio dice all'Italia avrà un ruolo importante, sono delle cose a cui siamo evidentemente abituati. Una notizia in realtà è uscita ieri e noi avremo il sottosegretario Maglio Di Stefano ai nostri microfoni proprio in apertura alle 16.05, perché proprio il sottosegretario dovrebbe rivestire il ruolo di capo di questa commissione economica bilaterale tra Libia e Italia, che dovrebbe riallacciare i rapporti soprattutto economici fra le due nazioni. Ecco, riesumando, ma si è tanto parlato del famoso piano, è vero, allora il piano Berlusconi? È nelle intenzioni, ne abbiamo un po' parlato proprio nella puntata di ieri. Prevederebbe la costruzione di questa autostrada della pace, un'opera titanica, complessa, mai realizzata nemmeno in Italia, che è stata interrotta perché poi c'è stato tutto il crollo del regime di Gheddafi. Esattamente, quindi il 2011, la cosiddetta primavera araba, ha congelato o messo a fuoco e fiamme, se preferite. Ma era iniziata un po' questa tutto. Cosa, quella costruzione. Cioè, c'erano cantieri. Certo, perché per esempio già l'aeroporto di Tripoli gli italiani ci avevano messo le mani. Adesso l'idea per una serie di investimenti miliardari che potrebbero davvero rilanciare anche parte dell'economia italiana, si dovrebbe rimettere in piedi questa commissione. Quindi chiederemo conto a Maglio Di Stefano come intende gestire, perché c'è un nodo fondamentale. Quell'accordo, che forse all'epoca da parte del governo Berlusconi era particolarmente lungimirante, è avvenuto in un momento di pace, di grande stabilità. Gheddafi, con pugno duro, piacente o non piacente, governava la Libia. Adesso è tutt'altro, tutta un'altra Libia. Quindi quando Sarraj dice le aziende italiane sono le benvenute, sì, ma a quali condizioni di sicurezza? Quindi forse, come abbiamo sussurrato ieri in trasmissione, sembra più un amo gettato dal governo italiano per ingolosire in qualche modo Tripoli, dicendo siamo pronti a fare affari. Poi nella pratica vedremo se riusciranno e quando. Questa è una delle grandi domande. Altra questione invece in primo piano riguarda il processo a Parigi per Charlie Hebdo. Sono passati 4 anni, le ferite sono ancora molto molto dolenti. Tentennavo perché il processo esattamente per cosa? Allora, in realtà gli attentatori materiali non ci sono, esatto, perché sono tutti morti. Poi negli attentati che seguirono, in quei giorni di sangue terribili che hanno inaugurato una delle storie forse più tragiche dell'Europa e della Francia in particolare, sono tutti gli indagati sono per favoreggiamento, supporto logistico, eccetera. Praticamente tutta la redazione di Charlie Hebdo, che noi stiamo provando a contattare ormai da ieri notte, sono testimoni, quindi saranno presenti al processo. Charlie Hebdo in queste ore ha ripubblicato quelle vignette che tanto scalpore fecero. Proveremo a interrogarci, da un lato, anche con l'aiuto degli ascoltatori, diciamo, dove si ferma il confine della libertà di espressione, anche nell'andare a attaccare religioni, credo e fedi, e dove invece inizia il territorio dell'opportunità politica. Capire quando un giornale invece deve fare un passo indietro per evitare certe cose. È terreno super spinosissimo, naturalmente noi non abbiamo alcuna risposta. E poi cercheremo di dare un focus diverso, perché c'è un allarme dei servizi segreti francesi, avremo una esperta di terrorismo, Anne Giudicelli, lì italo-francese, perché vi sarebbero almeno 8.000 persone nel mirino dei servizi segreti francesi, pronte a compiere attentati o a gravitare attorno agli ambienti terroristici. Quindi diciamo c'è la storia giudiziaria, quella ferita, quel vulnus che forse la giustizia proverà a riparare, dall'altra parte un nuovo allarme per il presente. Sì, un po' la storia che si ripete, se vuoi. Abbiamo ancora un minutino, che mi dici degli Stati Uniti e di Trump? Le ultime movimenti? Gli ultimi movimenti, allora so che con Giulia Crivelli dedicate grandissimo e ampio spazio anche alle dichiarazioni di Donald Trump. Quest'oggi noi le releghiamo, se vuoi, al termometro, nel senso che aspettiamo un attimo per tornare a fare un nuovo approfondimento. Diciamo che sta continuando un'opera da parte di Donald Trump di grandissima polarizzazione, di grandissima divisione dell'opinione pubblica. Chi è con lui rimane con lui, chi è contro di lui rimane contro di lui. È come se cristallizzasse volutamente questa situazione. Di sicuro gli Stati Uniti non sono sull'orlo di una guerra civile, ma è una società che non si vedeva così spaccata sicuramente da decenni. Questo fa gioco alla sua politica molto aggressiva, molto muscolare dal punto di vista ovviamente verbale e lessicale. I sondaggi li stanno iniziando a dare ragione. Perché rischia di, come dire, sopraffare mediaticamente Biden, che è molto più debole. Assolutamente, perché su questa polarizzazione ma siamo alle solite, Alessio. Chi detta l'agenda politica, chi la spara grossa, perdonatemi il termine, forse un po' puerile, Bernie Sanders è costretto costantemente a rincorrere Donald Trump, e questa cosa è pagante, non Joe c'è Biden, dubbio. Joe Biden. Pardon. Abbiamo fatto un salto indietro. Grazie Giampaolo, l'appuntamento con Nessun Luogo è Lontano, naturalmente oggi pomeriggio alle 16, come ogni pomeriggio su Radio 24. È tutto per la puntata di oggi, Effetto Giorno, con Paolo Corleone in regia, Jacopo De Franchi in redazione, e da me, Alessio Maurizi, l'auguro di una buona giornata. Ciao. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.